Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Con la legge di stabilità dell'anno scorso è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto Patent Box, uno strumento che mira a collocare o a mantenere in Italia la titolarità di brevetti, di marchi che potrebbero invece fuggire verso paesi con politiche fiscali più accomodanti, appunto verso i redditi da proprietà intellettuale. Con alcune differenze, infatti, il Patent Box esiste già in altri 12 paesi dell'Unione Europea. Ebbene, nonostante la fine del 2015 sia ormai vicina, ci sono però ancora dubbi sulle modalità operative secondo cui funzionerà questo Patent Box, dubbi che si stanno chiarendo solo in questi giorni. Allora noi ne parliamo con Ranieri Villa, che è dottore commercialista, revisore legale, esperto all'interno di Deloitte di agevolazioni fiscali nel settore appunto della ricerca e sviluppo. Buonasera Villa. Buonasera. Eccoci qua. Allora, intanto Villa, ci ricordi rapidamente questo Patent Box, in che cosa consiste e appunto che obiettivo ha? Il Patent Box è un'esclusione dal reddito, dal reddito che a regime sarà del 50%, ma per il primo esercizio, per il 2015, il 30%, poi per il secondo il 40%, e a regime, dicevamo, il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di beni materiali. E una detassazione integrale per eventuali plusvalenze da cessione sempre di beni immateriali. Quindi è di fatto un incentivo che ha lo scopo di incentivare il rimpatrio, ma anche di incentivare la fuga, visto che ci sono in Europa già 12 paesi che hanno un regime agevolativo come il Patent Box, l'Irlanda sarà il 13°. E quindi da un lato incentivare la fuga, però anche sempre comunque incentivare la spesa in ricerca e sviluppo, certo. Perché comunque non bisogna dimenticarsi che è un incentivo alla ricerca e sviluppo. Che ci sono alcune aziende, io sì. Penso ad alcune società di ingegneria che quasi vivono solo di proventi dei brevetti, fanno molta ricerca e sviluppo, esatto. E vivono, certo, di proventi dei brevetti. Queste qua sono senz'altro facilitate. I soggetti a cui può chiaramente interessare, però non solo quelle, ma il Patent Box italiano ha una portata molto ampia, perché non va solo ad incentivare le royalties che un soggetto riceve per la ricerca e sviluppo che concede in utilizzo a terzi, quindi il cosiddetto utilizzo indiretto, ma va a incentivare anche l'utilizzo diretto, cioè il contributo economico del bene immateriale al proprio risultato dell'esercizio. Quindi anche, ad esempio, si può pensare ad un marchio, la vendita di un prodotto che incorpora un marchio molto forte, il contributo economico del marchio al prezzo di vendita di quel prodotto, il reddito derivante viene incentivato. Caspita. Quindi, dunque Villa, lo scorso 20 ottobre c'è stato un decreto attuativo del Ministero Sviluppo Economico e anche Economia e Finanza, seguito poi il 10 novembre da un atto dell'Agenzia delle Entrate che ha approvato e rilasciato un modello cosiddetto di opzione. Ecco, questa è una novità, l'esercizio di questa opzione è molto importante. Ci spieghi bene di che cosa si tratta? È importantissimo esercitare questa opzione, perché questo è un regime opzionale. Opzionale vuol dire che non è automatico prendersi questa detassazione, questa agevolazione, ma bisogna esercitare un'opzione che è quinquennale ed irrevocabile. Un po' come iscriversi a quelli che ne hanno diritto, tra virgolette. Esatto, detto. Iscriversi a quelli che ne hanno diritto. E per iscriversi per il 2015 e per il 2016 bisogna presentare questa opzione entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Quindi per iscriversi per il 2015 bisogna presentare l'opzione entro il 31 dicembre 2015. Ma non basta se vuole anche l'utilizzo diretto, perché in caso di utilizzo diretto, per quantificare, sì, quanta parte di quota dei miei ricavi è relativa a royalties, è necessario presentare un'istanza di ruling che vada a determinare questa quota, la metodologia, appunto, con cui determinare il contributo economico. Il calcolo, perfetto. Il calcolo del contributo economico. E anche questa cosa deve essere fatta entro il 31 dicembre per poter accedere, esatto, a questo regime. Esatto. Ed è per questo che bisogna correre, perché l'opzione, certo, devi solo scrivere il tuo nome. Il ruling è un po' più complicato. Il ruling è un pochettino più complesso. Ecco, sì. Dunque, il Patent Box è stato introdotto, l'abbiamo detto, da circa un anno, ma si prevede che forse già a partire dall'anno prossimo comincerà a cambiare. Quali sono i cambiamenti che ci si aspettano? Allora, l'OCSE a livello di progetto BEPS ha chiesto agli stati aderenti, quindi anche all'Italia, di fare alcune modifiche su alcuni regimi che ritiene harmful. E nel caso specifico sono agevolazioni che l'OCSE ritiene che non siano propriamente date alla ricerca e sviluppo. Infatti, ma sono delle forme camuffate di sostegno, di aiuto all'impresa in pratica? Sono delle forme che ritiene che non siano delle vere e proprie agevolazioni alle ricerche e sviluppo. Sì. Come? E come ad esempio i marchi e il know-how per le grandi imprese, quindi il know-how per le PMI può essere agevolato, ma a certe condizioni, e i marchi sono considerati una pratica per cui non si potrà più optare in base all'Action 5 dell'OCSE dopo il 30 giugno 2016. Va bene, grazie Ranieri Villa. Prego, arrivederci, buonasera. È tutto, a lunedì. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento.